Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel Ami di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Arrivati al giovedì, Georges disse a Madeleine: «Non vieni al torneo da rival?» «Oh no! La scherma non mi diverte troppo!» Essendo una splendida giornata, Georges si recò dalla signora Walter il landò scoperto. Rimase sorpreso vedendola, tanto gli parve giovane e bella. Era vestita di chiaro, col corpetto lievemente spaccato, che lasciava indovinare sotto un merletto biondo l'opulenza del seno. Non gli era mai sembrata così fresca. Gli parve appetitosissima. Aveva il solito aspetto tranquillo di donna per bene, quel contegno di pacifica madre di famiglia che la faceva passare quasi inosservata agli occhi degli uomini galanti. La figlia Suzanne, in rosa, sembrava un Watteau appena dipinto. E la sorella maggiore pareva l'istitutrice incaricata di far compagnia a quel ninnoletto di bambina. Davanti al portone di Rival c'era una lunga fila di carrozze. Duroy offrì il braccio alla signora Walter ed entrarono. Il torneo era a beneficio degli orfani del sesto arrondissement di Parigi, sotto il patronato di tutte le mogli dei senatori e dei deputati che avevano qualche legame con la vie française. Jacques Rival riceveva gli invitati nell'ingresso della sua abitazione, dove erano stati predisposti rinfreschi che per la spesa dovevano gravare sull'incasso. Poi indicava con gesto cortese la scaletta che portava nello scantinato, dove aveva sistemato la sala d'armi e di tiro, e diceva: «Scendere, gentili signore, scendere! Il torneo si svolgerà nei locali sotterranei!» Si precipitò incontro alla moglie del suo direttore. Poi, stringendo la mano a Duroy, fece: «Buonasera, Bel Ami!» L'altro rimase sorpreso. «Chi le ha detto che...» Rival non lo lasciò finire. «La signora Walter qui, presente, che trova questo soprannome molto carino!» La signora Walter arrossì. «Sì, confesso che se ci conoscessimo di più, farei come la piccola Lorine. Lo chiamerei anch'io, Bel Ami. Le si addice molto.» Duroy rideva. «Ma la prego, signora, lo faccia!» Lei aveva abbassato gli occhi. «No, non siamo ancora intimi fino a questo punto.» Lui mormorò: «Posso sperare che lo diventeremo presto?» «Beh, vedremo, vedremo», rispose lei. Quasi tutte le panche erano occupate dalle donne e si sentiva un gran fruscio di stoffe e un gran cicaleccio. Costoro si sventagliavano come a teatro, essendoci già, in quella grotta piena di foglie, un caldo da stanza termale. La signora Walter e le figlie raggiunsero i posti a loro riservati in prima fila. Duroy, sistematele, disse facendo l'atto d'andarsene: «Sono costretto a lasciarvi. Gli uomini non possono occupare le panche.» La signora Walter rispose esitando: «Vorrei che rimanesse ugualmente. Mi direbbe i nomi degli schermitori. Guardi, se ne starà in piedi accanto a questo sedile. Non disturberà nessuno.» Lo guardava coi suoi occhioni miti. Insisteva: «Su, resti con noi, signor Bel Ami.» Lui rispose: «Obbedisco, e con piacere, signora.» La prima parte si concluse con una bella partita d'armi fra Jacques Rival e il famoso professore belga Le Beg. Rival fu apprezzato molto dalle donne. Era davvero un bel ragazzo, ben fatto, sciolto, agile, molto più avvenente di tutti gli altri che lo avevano preceduto. Recava nel suo modo di chiudersi in guardia e di andare a fondo una certa mondana eleganza che piaceva e che contrastava col piglio energico ma ordinario dell'avversario. «Si nota subito l'uomo di classe», dicevano intorno. La botta decisiva fu sua. Grandi applausi. Una voce potente gridò: «Qui dentro si soffoca! Finiamo alla svelta e andiamocene!» Un'altra voce propose: «La questua!» E il pubblico boccheggiante ma contento ripeté: «La questua! La questua!» Sei signore allora si misero a girare fra le panche e si sentì il lieve tintinnio delle monete che cadevano nelle borse. Duroy diceva alla signora Voltaire i nomi degli uomini più in vista. Uomini di mondo, giornalisti, quelli dei grandi quotidiani, dei vecchi quotidiani, che consideravano la vie française con sufficienza, con un tal qual riserbo sorto dalle loro esperienze. Ne avevano visti morire tanti di quei fogli politico-finanziari nati da equivoche nozze e crollati con la caduta d'un ministero. Qualcuno gridò: «Ciao, caro!» Era il conte de Vaudrec. Dopo essersi scusato con le signore, Duroy andò a stringergli la mano. Ritornato disse: «È un uomo meraviglioso, Vaudrec. Si sente subito il sangue blu standogli vicino». La signora Voltaire non rispose. Era un poco stanca e il respiro le sollevava faticosamente il seno, attirando lo sguardo di Duroy che, di quando in quando, si incrociava con quello della padrona. Uno sguardo turbato, incerto, che si posava su di lui per sfuggirgli subito. Seguì uno scontro alla sciabola, ma nessuno lo degnò d'un'occhiata, giacché tutta l'attenzione era rivolta a ciò che stava succedendo al piano di sopra. Per alcuni minuti s'era sentito un gran tramestio di mobili spostati, trascinati sul pavimento come in uno sgombero. Poi d'un tratto s'udì attraverso il soffitto il suono d'un pianoforte e ben distinto un rumore cadenzato di piedi. La gente del piano superiore stava offrendosi un ballo in risarcimento di non aver potuto veder nulla. A poco la folla tornò su salendo la scaletta. Andavano a bere, finalmente. L'indignazione fu grande quando s'accorsero che quelli del ballo, prima d'andarsene brontolando che era stata una vergogna scomodar 200 persone per niente, avevano fatto repulisti dei rinfreschi. Non era rimasto nulla di nulla, né un pasticcino, né un goccio di champagne, o di sciroppo, o di birra, né un dolce, né un frutto. Non restò dunque che andarsene. Certuni rimpiangevano i 20 franchi offerti, indignati che quelli del ballo avessero fatto bisboccia senza tirar fuori un soldo. Duroy, di scorta alla famiglia Voltaire, attese il landò. Nel riaccompagnare la padrona, sedutole di fronte, ne incontrò ancora una volta lo sguardo carezzevole e sfuggente, turbato, gli parve. E pensò: «Capperi, mi par che abbocchi davvero». E sorrise a quella nuova prova della sua fortuna con le donne, confermatagli del resto anche dalla signora de Marelle, che dopo la ripresa dei loro amori appariva pazza di lui. Rincasò con passo allegro. Madeleine lo aspettava in salotto. «Ho delle novità», disse. «La faccenda del Marocco si complica. È probabile che la Francia invii là un corpo di spedizione fra qualche mese. Comunque sarà un buon pretesto per rovesciare il governo. E così la Roche potrà approfittare dell'occasione per beccarsi gli esteri». Duroy, per punzecchiare la moglie, finse di non credere a nulla di tutto ciò. Non sarebbero stati così matti da ripetere la sciocchezza di Tunisi. Madeleine gli voltò le spalle, non ritenendolo degno di risposta. Poi, dopo un breve silenzio, riprese: «Avremo gente martedì. La signora La Roche-Mathieu verrà a pranzo da noi con la contessa de Persemur. Vuoi invitare tu Rival e Norbert de Varenne? Io andrò domani dalla signora Voltaire e dalla signora de Marelle. Forse verrà anche la signora Rissolin». Duroy rispose: «Benissimo. Penserò io a Rival e a Norbert. L'indomani, dato che Madeleine doveva recarsi a invitare la signora Voltaire, Duroy volle precederla per trovar sola la padrona e veder se davvero era invaghita di lui. Si presentò al Boulevard Malherbe alle 2. Lo fecero passare in salotto. La signora Voltaire apparve con la mano tesa in uno slancio di gioiosa premura. «Qual buon vento!» «Nessun buon vento, ma il desiderio di vederla. Una forza misteriosa m'ha sospinto a casa sua, non so perché, senza che io abbia niente da dirle. Sono venuto. Eccomi qua. Mi perdona questa visita mattutina e la franchezza della spiegazione. Aveva detto tutto questo in tono galante e faceto, col sorriso sulle labbra e molta serietà nella voce. Lei se ne stava lì, stupita, un poco rossa, balbettando. «Ma, a dire il vero, io non capisco. Lei mi stupisce». Lui aggiunse: «È una dichiarazione, in forma giocosa, per non spaventarla». S'erano seduti vicini. Lei prese la cosa come uno scherzo. «Dunque, è una dichiarazione seria?» «Ma certo. È da un pezzo che volevo fargliela. Anzi, da un bel pezzo. Ma non osavo. Dicono che lei sia molto severa, molto rigida». La signora Valtaire aveva riacquistato la propria disinvoltura. Rispose: «E perché ha scelto oggi?» «Non so», disse lui. Poi, abbassando la voce, soggiunse: «O meglio, perché da ieri non son riuscito a pensare ad altro». Lei balbettò impallidita ad un tratto: «Oh via, basta con le ragazzate, cambiamo discorso». Ma lui le si era buttato ai piedi così bruscamente da metterle a un tratto paura. Tentò di alzarsi. George la costrinse a restar seduta, stringendola con le braccia alla vita e ripetendo appassionatamente: «Sì, è vero, l'amo follemente da un pezzo». «Non mi risponda nulla. Cosa vuole che le dica? Sono un pazzo. L'amo!» Lei si sentiva mancare. Ansava. Cercava di parlare senza riuscire a pronunciare una parola. Lo respingeva indietro con tutte e due le mani. Lo aveva preso per i capelli per impedirgli d'avvicinar la bocca alla sua. Lui la toccava attraverso il vestito, la maneggiava, la palpava, mentre lei si sentiva svenire sotto quelle carezze brusche e forti. George si alzò d'improvviso e cercò di prenderla, ma lei, rimasta libera un attimo, gli sfuggì con una mossa all'indietro e si mise a scappare da una poltrona all'altra. Gli parve ridicolo rincorrerla e si lasciò cadere su una sedia, coprendosi il volto con le mani e fingendo di singhiozzare convulsamente. Poi si alzò, gridò «Addio, addio!» e fuggì via. Riprese tranquillamente la mazza in anticamera e scese in strada pensando: «Cribbio, mi sa che ci siamo». Quella mattina Madeleine ricevette un biglietto della padrona. «Sono riuscita con molta fatica a rendermi libera. Sarò dei vostri, ma mio marito non potrà accompagnarmi». Duroy pensò: «Ho fatto benissimo a non tornare da lei. Ecco che si è calmata. Occhio alla penna». Comunque ne aspettò l'ingresso con un certo patema. Quando giunse parve molto tranquilla, anche se un po' freddina, un po' sulle sue. George si fece umile umile, discretissimo e sottomesso. La padrona lo eccitava per la difficoltà stessa della conquista e anche perché la novità attrae sempre gli uomini. Costei volle tornare a casa presto. «La accompagno», disse George. Rifiutò. Lui insisté: «Perché non me lo permette? Mi offende profondamente». «Non può piantare in asso così i suoi invitati», rispose lei. Lui sorrise. «Ma si tratta di una ventina di minuti. Non se ne accorgeranno nemmeno. Se rifiuterà, mi aprirà una ferita nel cuore». Lei mormorò: «E sia, mi accompagni». Ma appena furono in carrozza, lui le afferrò la mano e disse, baciandogliela appassionatamente: «Io l'amo, l'amo. Lasci che glielo dica, non la toccherò. Voglio soltanto ripeterle che l'amo». Lei balbettava: «Oh, dopo quanto m'aveva promesso, non sta bene, non sta bene». George finse di fare un grande sforzo di volontà e rispose contenendo la voce: «Guardi, guardi come mi domino. Ma lasci almeno che le dica questo, che l'amo. Lasci che glielo ripeta tutti i giorni. Sì, lasci che io venga a inginocchiarmi da lei 5 minuti ai suoi piedi per dirle queste due parole, guardando il suo volto che adoro». Lei gli aveva abbandonato la mano e rispose col fiato mozzo: No, no, non posso, non voglio. Pensi a quello che direbbe la gente, ai miei domestici, alle mie figliole. No, no, è impossibile. Mi ascolti. È necessario. La aspetterò davanti al portone di casa sua come un povero. Se non scenderà, salirò io, ma la vedrò domani. Lei ripeteva, no, no, non venga, non la riceverò. Pensi alle mie figliole. Allora mi dica dove posso incontrarla. Per strada, non importa dove. La saluterò, le dirò, l'amo, e me ne andrò. Lei esitava, smarrita, e mentre il coupé infilava il portone del suo stabile, mormorò in fretta, ebbene, domani alle 3:30 sarò nella chiesa della Trinità. Place de la Trinité era semideserta sotto la vampa del sol di luglio. Una calura greve opprimeva Parigi, come se dal cielo fosse piombata sulla città un'aria pesante e infocata, un'aria spessa, cocente, che massacrava i polmoni. Duroy cavò di tasca l'orologio. Erano appena 3:00. Era giunto con 30 minuti d'anticipo. Quell'appuntamento lo metteva di buon umore. Per lei, pensava, le chiese son buone ad ogni uso. La consolano d'aver sposato un ebreo. Le donano un atteggiamento di protesta nell'ambiente politico, un'aria a modo fra la gente per bene e un rifugio per i suoi convegni galanti. Cosa vuol dire l'abitudine a servirsi della religione come d'un ombrello? Pensò che dentro ci sarebbe stato meglio. Ed entrò. L'aria era fresca come in una cantina. La respirò con voluttà, poi girellò sotto le navate per ispezionare il luogo. Sussultò al fruscio d'un abito. Era lei. Si alzò, le mosse incontro di scatto. Lei non gli porse la mano e mormorò a bassa voce: «Dispongo soltanto d'un attimo. Devo tornar subito a casa. Si inginocchi vicino a me, che non ci notino». E s'avviò sotto la grande navata cercando un posto adatto e sicuro da donna che è pratica della casa. Aveva il volto nascosto da un fitto velo e camminava con passo ovattato che s'udiva appena. Giunta presso il coro, si voltò e biascicò col tono misterioso che si usa in chiesa: «Sarà meglio nelle navate laterali». Salutò il tabernacolo dell'altar maggiore con un profondo inchino. Rafforzato da una lieve genuflessione, voltò a destra, tornò verso l'ingresso, infine si decise e, preso un inginocchiatoio, si inginocchiò. George occupò l'inginocchiatoio accanto e, appena furono fermi in atteggiamento di preghiera, «Grazie», disse lui, «grazie, io l'adoro, vorrei dirglielo in ogni momento». Lei lo ascoltava, atteggiata a profonda meditazione, e come se non udisse nulla, rispose di fra le dita: «Oh, sono pazza a lasciarla parlare così, pazza ad essere venuta, pazza a far quel che sto facendo, a lasciarle credere che questa avventura possa avere un seguito. Dimentichi, è necessario, e non me ne riparli più». Poi rimase in attesa. Lui cercava una risposta, qualche frase decisiva, appassionata, ma non potendo aggiungere l'atto alla parola, si sentiva paralizzato. Soggiunse: «Non m'aspetto nulla, non spero nulla. L'amo. Qualunque cosa lei voglia fare, glielo ripeterò così spesso, con tanta forza e calore, che dovrà pur finir col comprenderlo. Voglio che il mio amore la penetri tutta. Voglio instillarglielo nell'animo, parola per parola, ora per ora, giorno per giorno, finché non ne resterà imbevuta come d'un elisir versato a goccia. Voglio che la addolcisca, la intenerisca e la costringa a rispondermi più in là: anch'io la amo». Sentiva la spalla di lei tremar contro la sua e il petto palpitarle. Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it.